le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Lo scandalo FIFA, Blatter parla di cataclisma e chiede unità, ma di fatto per essere rieletto oggi il voto, gli inglesi minacciano di non partecipare al mondiale del 2018. L'Istat certifica l'uscita dalla recessione, nel primo trimestre il PIL è cresciuto dello 0,3%, Italia fuori anche dalla deflazione. Torna l'asse franco-tedesco, Merkel e Olanda offrono aiuto alla Grecia perché resti nell'euro, il nostro obiettivo, dice Berlino. Ancora in corso le ricerche dei due 17enni che erano sull'auto dell'incidente a Roma, resta alta la polemica sui campi Rom, Berlusconi attacca, Salvini peggiora la situazione. E per le elezioni si riunisce la commissione antimafia per decidere sui nomi degli impresentabili, dei cosiddetti impresentabili, ultimi fuochi appunto per la campagna elettorale che si chiude questa sera. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e durante la diretta il numero di sms, il 349-238-6666. In apertura, dunque, torniamo alla riunione della FIFA a Zurigo, che questo pomeriggio, nonostante lo scandalo, dovrebbe votare per l'elezione del nuovo presidente, che forse sarà quello vecchio. J'appelle a notre esprit d'équipe, à l'unité. Oggi faccio appello all'unità e allo spirito di squadra per poter andare avanti tutti insieme. Non sarà facile, ma è per questo che siamo qui, per risolvere questi problemi. I colpevoli sono gli individui, non l'organizzazione. Apre così il 65esimo congresso della FIFA Joseph Blatter. Nella sala, quando il presidente termina il discorso, scrosciano gli applausi e non si sente neppure un fischio. 15 minuti di discorso per ricompattare le fila e ricordare il grande successo economico del calcio. Nel pomeriggio o al più tardi inizio serata si procederà intanto all'elezione del presidente della Federcalcio Mondiale. Gli Stati Uniti hanno già dichiarato l'intenzione di votare contro la rielezione di Blatter. Lo stesso dicasi per il Canada e la Gran Bretagna. Da Mosca Vladimir Putin invece difende l'amico e attacca gli Stati Uniti. Tra i vari interventi il più critico e duro è però quello del presidente UEFA Platini. Sono disgustato, dice, non ne posso veramente più. Chiedendo a Blatter di dimettersi per il bene del calcio, aggiunge: faccio appello a tutte le federazioni mondiali e chiedo di votare per il principe Ali. Platini dice di avere sicuri 45 voti per il principe Ali e per rafforzare questo blocco circola anche la minaccia di un boicottaggio dell'Europa ai mondiali russi del 2018. Come andrà a finire si saprà stasera. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E seguiremo nel corso della giornata tutte queste vicende, torneremo a parlarne come naturale anche ai tutti convocati a partire dalle 14. Siamo ai dati diffusi questa mattina dall'Istat che certificano la fine della recessione. Sentiamo. La conferma ufficiale è arrivata. Nel primo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è tornato a crescere, dunque tecnicamente siamo fuori dalla recessione, più 0,3% rispetto all'ultimo trimestre 2014, il rialzo maggiore da 4 anni a questa parte. La crescita c'è anche su base tendenziale, più 0,1% anno su anno, e in questo caso il dato è stato rivisto al rialzo, il primo segno più in termini tendenziali dopo 13 trimestri. I tecnici Istat spiegano che il livello del PIL resta comunque intorno ai livelli di inizio 2000. Rispetto al trimestre precedente, da gennaio a marzo, i consumi finali nazionali risultano in lieve diminuzione, mentre gli investimenti fissi lordi crescono di 1,5 punti. Sul versante degli scambi con l'estero, le importazioni sono aumentate e le esportazioni sono rimaste stazionarie. Vera sorpresa l'agricoltura, che ha iniziato il 2015 segnando una crescita del 6%. Numeri positivi anche per l'industria e le costruzioni, mentre variazione nulla nel settore dei servizi. Fuori dalla recessione, fuori dalla deflazione. A maggio l'indice annuo dei prezzi è risalito allo 0,2% dal meno 0,1 di aprile. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E restiamo sui temi economici per spostarci però a parlare di Grecia. Stanno arrivando in questi minuti le dichiarazioni del portavoce del governo tedesco Stefan Seibert, che risponde ad una domanda sulla conferenza telefonica che c'è stata ieri proprio sulla Grecia tra Angela Merkel e François Hollande. E dice Hollande e Merkel hanno offerto aiuto alla Grecia affinché Atene resti nell'euro. Quest'ultima afferma è stata a quanto pare messa in dubbio da un'intervista alla FATS del direttore del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde. Ci colleghiamo con Vittorio Darold del Sole 24 Ore per l'ennesima puntata della telenovela greca. Vittorio, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi. Che cosa ha detto effettivamente Lagarde? Sì, il direttore generale Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario, ha rilasciato un'intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, un quotidiano molto autorevole tedesco, in cui ipotizzava l'uscita dalla Grecia, dall'euro, come una possibilità. Pronta però è arrivata la precisazione di Jerry Rice, il portavoce del Fondo Monetario, che da Washington ha detto che si è trattato di un errore di traduzione, insomma non di possibilità ma di un'ipotesi potenziale, quindi molto meno importante come scenario. Però intanto le borse di tutto il mondo sono andate appunto sull'otto volante e ieri sono state molto colpite da questa affermazione, perché il Fondo Monetario Internazionale è uno dei tre partecipanti alla cosiddetta Troica, cioè l'unione dei creditori. Quindi siamo in una situazione molto complessa, perché Atene vorrebbe un surplus primario ridotto per dare più spazio alle cosiddette politiche di sostegno ai consumi e quindi ridurre l'austerità che da 5 anni colpisce il PIL greco. Il Fondo Monetario invece vorrebbe un surplus primario maggiore, perché garantisce la sostenibilità del debito, senza la quale non può dare i prestiti, e gli europei vogliono invece i conti in ordine con aumenti dell'IVA e i tagli alle pensioni. Insomma, e tutte queste differenze tra i creditori della Grecia si riflettono anche sulla comunicazione che è quella che poi agita i mercati alla fine, Vittorio. Sì, esattamente, perché dietro a queste divisioni diciamo di varie esigenze, di politiche diverse tra i membri europei della Troica, BCE, che ieri anch'essa ha lanciato un monito a non sottovalutare il rischio contagio, e i paesi europei, i partner europei da un lato e poi il Fondo Monetario dall'altro, si crea un cortocircuito in cui ognuno dice la sua, ma alla fine non c'è più quella uniformità e quindi c'è una polifonia che disturba naturalmente sia i mercati, ma sia anche il fatto di arrivare a un compromesso, perché il negoziato viene continuamente disturbato da queste diverse valutazioni dello scenario in corso. Ti ringrazio, grazie a Vittorio Darold. Nel frattempo vi aggiorno sui mercati. Il FTSE MIB in questo momento guadagna lo 0,11%, il FTSE OCER lo 0,08%, quindi siamo appena sopra la parità, mentre negative sono le altre piazze finanziarie europee. Di borse, come sempre, torneremo a parlare alle 13.30. Veniamo alla cronaca con gli aggiornamenti sulle ricerche dei due minorenni che si ritiene fossero sulla macchina in fuga dalla polizia, che ha investito 9 persone, uccidendone una a Roma. È ancora caccia i 2 minorenni nomadi in fuga da mercoledì sera, dopo aver travolto e ucciso una donna filippina e feriti altri 8 pedoni a bordo di un'auto inseguita dalla polizia nel quartiere Boccea di Roma. Gli investigatori hanno le loro foto segnaletiche, sanno chi sono e dove abitano, li hanno cercati in tutti i campi nomadi della città, hanno interrogato decine di persone. L'unica in arresto per concorso in omicidio volontario al momento è la 17enne di origine bosniaca che si trovava con loro e che è stata catturata subito dopo l'investimento. Sarebbe la moglie del 16enne, ma sull'identità di tutti ha mentito più volte. Non trova riscontro al momento il racconto fornito dal padre di uno dei due, che sostiene di essere stato lui alla guida. Una donna che dichiara di essere la madre intanto ha chiesto perdono a nome dei ragazzi, ma gli inquirenti pensano a tentativi per coprirli e minacciano denunce per favoreggiamento. Nel quartiere la rabbia è fortissima e si temono azioni di giustizia sommaria, per questo i campi della zona sono vigilati notte e giorno. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche su questo si sta concentrando la campagna elettorale. Ci arriveremo tra un attimo, ma prima c'è il tema dei cosiddetti impresentabili. Si sta riunendo in questi minuti, o nei prossimi minuti inizierà la riunione della commissione antimafia, che dovrà decidere e poi diffondere questa lista. Andrea Viali, buongiorno. Sì, è così, buongiorno. Dunque, dopo le indiscrezioni che erano trapelate nei giorni scorsi, si conoscerà tra poco questa lista di candidati impresentabili stilata dalla Commissione parlamentare antimafia, che, come dicevi, si sta riunendo proprio in questi minuti, e al termine della riunione sarà la presidente Rosy Bindi ad illustrare quelli che sono gli esiti della verifica svolta sulla conformità delle liste elettorali. Non sarà un elenco insignificante, ha anticipato ieri il suo vice Claudio Fava. Le indiscrezioni, dicevamo, su alcuni alcuni dei nomi contenuti nella lista hanno alimentato, diciamo, inevitabilmente nuove polemiche, polemiche che hanno caratterizzato questi ultimi giorni di campagna elettorale. Sul caso è tornato anche il premier Renzi, che stamattina si è detto sicuro che comunque alla fine nessuno di questi candidati impresentabili verrà eletto. Ma la questione si intreccia anche con il nodo della legge Severino. A questo proposito invece il segretario democratico ha assicurato che il candidato del PD in Campania, De Luca, nonostante la condanna, è candidabile ed eleggibile. Non la pensano così invece le opposizioni. Sul caso De Luca vanno all'attacco il Movimento 5 Stelle e Forza Italia, ma critiche arrivano anche dal Nuovo Centrodestra, il cui leader Alfano avverte: c'è una legge e sarà applicata. Poi ci sono le scelte dei partiti che si assumono la responsabilità dei candidati che propongono, ha spiegato il ministro dell'Interno, Simone. Grazie Andrea Viali. Come si diceva, la campagna elettorale si sta concentrando in queste ore anche sul tema e su quello che è avvenuto a Roma. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Ultimi fuochi di campagna elettorale e continua la polemica sui Rom dopo il grave incidente di Roma, con Berlusconi che replica Salvini. I suoi toni esasperati peggiorano la situazione, ma il leader del Carroccio rilancia: bisogna chiudere tutti i campi Rom e Marino è un poveretto, spero si dimetta. Sulla stessa linea Fratelli d'Italia: solo una vera chiusura dei campi potrà permettere una vera inclusione sociale, un tema che dunque tiene banco in queste ultime ore, così come i temi economici. Renzi ieri a Virus ha rivendicato le riforme del governo, il fatto che il tasso di crescita sia tornato positivo, ostentando sicurezza sul risultato di queste elezioni, anche se non mancano le incognite su alcune regioni in bilico come la Liguria, tant'è che oggi sembra ridimensionare il valore di questa tornata. Domenica non si vota per il governo, dice, né per il PD, ma per il futuro delle regioni. Renzi che sarà ad Ancona nel pomeriggio, in serata a Firenze per chiudere la campagna elettorale. A Virus c'era anche Berlusconi, ma nessun faccia a faccia, solo uno scontro a distanza. Berlusconi convinto in un recupero di Forza Italia nonostante le divisioni, e a sperare in un rilancio dopo la debacle delle europee sono anche i 5 Stelle, che sperano in un buon risultato soprattutto in Campania e in Liguria. Grillo terrà il comizio finale proprio a Genova alle 21, e infine SEL, il leader Nichi Vendola sarà questa sera a Napoli. E da Roma è tutto. E grazie Alessandra Schepisi. A questo, alle regionali, è dedicato l'appuntamento con Daniele Biacchessi. Questa sera si chiude la campagna elettorale amministrativa, dove le polemiche e le schermaglie politiche hanno oscurato i veri problemi del governo, delle regioni e comuni. Certo, dopo le europee che hanno consacrato la leadership di Matteo Renzi, quello di domenica è un test importante per la tenuta dell'esecutivo e per misurare la consistenza delle opposizioni. Eppure tra due giorni si vota in regioni importanti come, tra le altre, Campania, Liguria, Veneto, Puglia e in oltre 1000 comuni. E qui sta il paradosso. Per la prima volta alle amministrative locali mancano proprio le amministrative locali. Non si è parlato dei grandi temi che interessano milioni di cittadini nei luoghi interessati alle elezioni. Nessuna traccia del dissesto idrogeologico della Liguria, della criminalità organizzata e del voto di scambio in Campania, delle piccole e medie imprese del Veneto, dell'economia pugliese messa in ginocchio dalla strage di Ulivi, e neppure sono emerse le soluzioni da adottare per risolvere alcuni gravi problemi che affliggono le nostre città. Agli occhi dei cittadini queste regionali e comunali appaiono distanti, troppo lontane, e la scarsa partecipazione politica rende probabile un forte aumento dell'assenteismo. E adesso torniamo alla cronaca con un caso che apparentemente è una vendetta di alcuni genitori contro un bullo. L'aggressione a tutti i tratti di un episodio di giustizia fai da te. Tre adulti hanno preso a calci e pugni uno studente 19enne dell'istituto Fiocchi di Lecco mentre aspettava l'autobus per andare a scuola. Tra gli aggressori ci sarebbe stato anche il padre di un ragazzino straniero che da mesi subiva offese e molestie da parte del compagno di classe più grande. Secondo i dati raccolti da Telefono Azzurro, il 35% dei ragazzi si dichiara vittima di bullismo, uno su tre a scuola. Quando la via del dialogo con gli insegnanti non basta, si può richiedere l'intervento del Ministero della Pubblica Istruzione e, nei casi più gravi, anche di altre autorità, come spiega Simona Maurino di Telefono Azzurro. Noi ovviamente, come Telefono Azzurro, approfondiamo ogni caso che ci perviene e sulla base degli elementi che approfondiamo coinvolgiamo quella che è l'agenzia del territorio, l'istituzione più opportuna. Non è il mio, non è l'unica risposta, o quantomeno può essere affiancata ad altri tipi di intervento se la situazione in sé lo richiede. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo. Vogliamo, a fronte di questi fuochi che si stanno accendendo in campagna elettorale sul tema dei Rom e dei campi Rom, cercare di fare un punto, senza peccare di buonismo da una parte o di eccesso di cattiveria dall'altra, cercare di capire qual è la situazione, quali sono i problemi, di che dimensione ha la popolazione Rom in Italia e dove le leggi mancano. A tra poco. Smau ti aspetta a Bologna. 4-5 giugno, Bologna Fiere. Smau.it. Vi presenta Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Lo scandalo FIFA, Blatter parla di cataclisma e chiede unità, ma di fatto per essere rieletto questa sera si saprà come sono andate le cose. L'Istat certifica l'uscita dalla recessione, nel primo trimestre il PIL è cresciuto dello 0,3%. Torna l'asse franco-tedesco, Merkel e Hollande offrono aiuto alla Grecia perché resti nell'euro. Ancora in corso le ricerche dei due 17enni che erano sull'auto dell'incidente a Roma. Ed è proprio da qua che ripartiamo, perché la campagna elettorale si sta concentrando in queste ore, dopo che sono successi i fatti di Roma, un'auto con alla guida tre persone, tre minorenni, tre Rom inseguita dalla polizia, 180 all'ora, la storia ormai la sapete, ha investito 9 persone, ne ha uccisa una, per fortuna le altre 8 tra l'altro sono fuori pericolo. Come si diceva, la campagna elettorale ha iniziato a concentrarsi, partendo soprattutto dalla Lega, ma coinvolgendo anche le altre parti politiche, sul tema dei campi Rom. Io voglio salutare Carlo Stasolla, che è il presidente dell'Associazione 21 Luglio. L'Associazione 21 Luglio è una onlus che si occupa dei diritti umani di Sinti e Rom. Allora, Stasolla, io immagino come la pensiate da questo punto di vista. Avete anche scritto un post sul vostro sito internet nel quale fate un appello ai mass media perché evitino l'etnicizzazione, per così dire, del reato. È un tema del quale abbiamo discorso anche ieri all'interno della nostra trasmissione. Però io oggi, Stasolla, vorrei sfruttarvi come le persone che meglio conoscono questa realtà anche dal punto di vista dei dati e soprattutto dal punto di vista dei dati a Roma. Voi avete firmato un rapporto un anno fa che si intitolava Campi Nomadi SPA, tra l'altro potete trovare sul sito internet dell'associazione, avete pubblicato adesso di recente un altro rapporto sul sistema Campi Nomadi nella capitale e quindi ci potete aiutare a capire come funzionano le cose e dove risiedono i problemi. Le chiedo innanzitutto di aiutarci a dare qualche numero effettivo sulla presenza dei nomadi in Italia e nella capitale. Buongiorno. Buongiorno, sì, in Italia c'è una delle più basse percentuali di presenza di Rom a livello europeo, visto che i Rom sono circa 12-14 milioni in Europa, in Italia sono solamente 180.000, pari allo 0,23% della popolazione. È importante osservare comprendendo Stasolla, scusi, quelli regolarmente censiti, come dire, o anche quelli dei quali non si sa nulla, per così dire, gli insediamenti irregolari. Comprendendo soprattutto, e sono 4/5 dei 180.000, Rom e Sinti che vivono in abitazioni convenzionali, svolgono un regolare lavoro, mandano i bambini a scuola e sono mimetizzati nella società, mimetizzati per paura di essere discriminati. Quindi noi in Italia abbiamo 130.000 persone che sono Rom, sono i nostri vicini di casa, sono i compagni di banco dei nostri figli, senza che noi lo sappiamo. Chiaramente sono Rom e Sinti anche di vecchia data, quindi di antico insediamento e quindi anche cittadini italiani. Poi ne abbiamo 1/5, quindi vuol dire 35.000-40.000, che vivono nei cosiddetti campi. I campi, che sono una realtà unicamente italiana, i campi formali parlo, proprio perché nati intorno agli anni 90, quando i Rom sono stati chiamati nomadi e quindi inadatti e incapaci a vivere nelle case, e da qui si è radicato in alcune città italiane, soprattutto nella città di Roma, il cosiddetto sistema campi. La fermo un attimo, Stasolla, perché questo è un punto molto interessante. L'Italia è l'unico paese europeo dove esistono i campi Rom? dove esistono i campi formali, cioè campi istituzionalizzati, creati dalle istituzioni per concentrare e segregare persone su base etnica, cioè per il solo fatto di essere rom, chi è in emergenza abitativa, come nel caso della città di Roma, ha un percorso che è parallelo, ma non si unisce. Parallelo vuol dire che non va verso un'edilizia residenziale pubblica, per esempio, o verso i residence, ma va verso i cosiddetti campi nomadi. Quindi c'è un grosso profilo di discriminazione, rilevato anche dalla Commissione europea, nelle politiche attuate, per esempio, dalle amministrazioni della capitale. Per cui una persona, per essere rom, in quanto rom, in emergenza abitativa, si rivolge alle istituzioni, le istituzioni lo collocano nel campo nomadi formale. Il campo nomadi, che è uno spazio di segregazione su base etnica, dove però scorrono fiumi di denaro pubblico senza che nulla vada ai rom, ma tutto al sistema, tutto all'indotto che si muove attorno al cosiddetto sistema campi. Allora, che ci sia però, Sasola, un problema da questo punto di vista, e che non è solamente quello di come funzionano le regole, è evidente, o meglio, di come è organizzata, di come sono organizzate i campi, è evidente. Dov'è che c'è un problema effettivo di regole in questo ambito? Beh, sicuramente i campi, in quanto connotandosi come ghetti, e quindi se pensiamo ai ghetti pensiamo un po' alle favelas brasiliane o alle baraccopoli di Nairobi, sono luoghi di devianza e di criminalità, ma non perché vivono i rom al loro interno, ma perché sono dei ghetti. Se poi il ghetto addirittura è istituzionalizzato, è chiaro che è più facile che si sviluppino e significhino al loro interno fenomeni di devianza e di criminalità. Quindi noi non nascondiamo e non ci nascondiamo il fatto che nel campo ci sia criminalità, ma è una criminalità dovuta al fatto non che vivono i rom, ma che vivono persone in una situazione ghettizzante. E qual è secondo lei la soluzione? Perché poi... La soluzione è estremamente semplice, guardi, è superare i campi, che non è chiuderli con le ruspe, perché questo non risolve niente, ma semplicemente noi da questo punto di vista con l'Università parigina di Sciences Po abbiamo fatto degli studi di fattibilità, semplicemente riconvertendo il denaro che oggi il Comune di Roma spende per segregare e concentrare le comunità rom nei campi o per le azioni di sgombero. Uno sgombero costa, sgomberare una persona significa spendere 1500 euro a persona senza risolvere nulla. Semplicemente riconvertendo questa cifra in progetti di inclusione lavorativa, abitativa, come ha fatto per esempio la città di Madrid, dove i rom non sono 8000 come a Roma ma sono 88000, facendo questo è possibile risparmiare, perché discriminare costa molto di più che includere, e risolvere il problema. C'è chi obietta, e qualcuno ce lo fa via SMS, dice: ma queste sono popolazioni che in realtà non vogliono essere incluse. Non è assolutamente vero, e questi sono i numeri che lo dimostrano. In Spagna ci sono 800000 rom a fronte dei nostri 180000, e i rom siedono anche in Parlamento. Quindi vuol dire che i rom, dove viene data l'opportunità, si include e vuole includersi. È l'Italia che ha provocato e che provoca una situazione di ghetto, ghetto indotto, per cui chiaramente creando questi spazi ci sono enormi interessi economici e politici a mantenere tali spazi. C'è anche questo punto, quindi, Stasola, in parte noi l'abbiamo visto nel corso delle inchieste su Mafia Capitale, c'è un tema che riguarda il business che c'è dietro i campi rom. Sì, nella città di Roma per esempio ci sono 35 organizzazioni che si muovono attorno al sistema campi. Nel 2013 le organizzazioni hanno avuto più di 24 milioni di euro, quindi vuol dire che una persona che vive in un campo, per esempio, costa tra le 450 e i 600 euro a persona al mese. Quindi vuol dire che parliamo sui 3.000 e i 6.000 euro a famiglia mensili, senza che nulla vada ai rom, senza che nulla vada a percorsi di inclusione, ma semplicemente a mantenere il sistema. A Roma ci sono circa 400 persone che lavorano attorno a questo sistema campi, che noi abbiamo diciamo metaforicamente indicato come una fabbrica di armi che produce morte, che produce discriminazione, segregazione, e per cui abbiamo anche invocato addirittura l'obiezione di coscienza per chi lavora in questi spazi. Un'ultima cosa, Stasola, qualche ascoltatore ci scrive, dice: guardi che noi l'Europa la giriamo e i campi ci sono in Europa. Io ho parlato di campi formali, cioè istituzionalizzati. Campi formali come campi istituzionalizzati esistono solamente in Italia, tanto che il Centro Europeo per i Diritti dei Rom chiama l'Italia il paese dei campi. La ringrazio, grazie a Carlo Stasolla che è presidente dell'associazione 21 luglio, è una onlus che si occupa di questi temi, la ringrazio per i chiarimenti e soprattutto per i numeri. È un'opinione, vedo che molti ascoltatori non sono d'accordo, ne sentiremo altre nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, come sempre facciamo. 3 anni fa il terremoto in Emilia, il racconto della nostra inviata. È molto deprimente, siamo venuti proprio a vedere. La piazza era sempre affollata. Adesso c'è poca gente, eh. Delle chiese non ne abbiamo più neanche una. Nel centro, vuoto di Mirandola, l'eco delle campane si amplifica nel silenzio. Da una parte le finestre ancora puntellate dei palazzi pericolanti, dall'altra i muri lucidi dei capannoni riaperti. 3 anni dopo il terremoto che uccise 27 persone, Mirandola ha 2 facce, quella delle imprese ora più forti di prima e quella del centro storico dove le transenne chiudono le zone rosse e il sole arroventa i container. Un'altra cosa quando c'è una casa, un muro, a noi ci interessa il muro, non questa lamiera. Non ci hanno detto niente, stiamo purtroppo aspettando. Nel frattempo dovete resistere. E infatti. E affrontare un'altra estate qua dentro. Sì, purtroppo sì, è così. Sono 1288 le persone che vivono ancora nei moduli abitativi provvisori, tra Mirandola, Cavezzo e Novi, 16.000 le famiglie ancora fuori casa e in questi 3 anni la regione ha stanziato 1.770.000 euro per una ricostruzione stavolta secondo le norme di un'area sismica. I capannoni crollati sugli operai non ne tenevano invece conto perché quella era considerata un'area a basso rischio e per questo le inchieste volgono verso un'archiviazione, conferma l'ex procuratore Vito Zincani. La zona è stata dichiarata sismica nel 2004 e la regione poi ha tardato a sua volta, no? Sì, si dice sempre che la regione Emilia-Romagna è molto efficiente, però è un fatto che ha tardato degli anni prima di emanare i relativi regolamenti. Il risultato qual è? È che abbiamo dei manufatti che oggi sappiamo non essere sicuri, però dal punto di vista giuridico non si può imputare a chi li ha progettati e costruiti, visto che quello era il modo con cui generalmente si costruiva. A settembre il GIP deciderà sui 10 indagati per il crollo dell'Emotronics di Medolla, costato la vita a 4 persone, ma l'azienda, guidata da Mattia Ravizza, nel frattempo punta a raddoppiare il fatturato. I giorni difficili, anni difficili, ma anche con spinti da un grande desiderio di ricominciare e continuare una strada che avevamo intrapreso prima del terremoto, che abbiamo voluto continuare e con ancora più forza di volontà dopo i tragici fatti del maggio di 3 anni fa. La parte migliore di questi 3 anni, di questa tragedia, è stata proprio vedere l'attaccamento anche di tutti i nostri collaboratori, quanto hanno partecipato. È questa l'altra faccia del terremoto, dove l'export è aumentato del 10%. Il terremoto è servito a fare proprio una selezione all'interno delle realtà produttive, di specializzarsi a fare determinate tipologie di lavoro. 2 facce di una stessa città e di un solo sisma. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Mirandola. Ci fermiamo, c'è la borsa e poi parleremo di un altro anniversario, quello della tragedia dell'Aisel. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Lo scandalo FIFA, Blatter parla di cataclisma e chiede unità, ma di fatto vuole essere rieletto. L'Istat certifica l'uscita dalla recessione. Nel primo trimestre il PIL è cresciuto dello 0,3%. Torna l'asse franco-tedesco. Merkel e Hollande offrono aiuto alla Grecia perché resti nell'euro. Ancora in corso le ricerche dei 2 diciassettenni che erano sull'auto dell'incidente a Roma. Resta alta la polemica sui campi Rom. La borsa. Per lavoro o vacanze scegli il noleggio Europcar. Europcar, moving your way. Vi presenta Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. 29 maggio 1985, finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool allo stadio Aisel di Bruxelles. Per chi si ricorda quella giornata, si consuma una tragedia in uno stadio anche male attrezzato, tra le altre cose. I tifosi del Liverpool provano ad assaltare i tifosi juventini messi per errore in un settore evidentemente sbagliato, troppo vicino. Si scatena l'inferno nella ressa, muoiono 39 persone. Oggi dunque si celebrano e si ricordano più che altro i 30 anni da quella tragedia. Saluto Francesco Caremani, che è un giornalista, un collega e autore di Aisel, Bell, La verità di una strage annunciata, edizioni Bradipo, tra l'altro, se non ho capito male Francesco, è l'unico libro riconosciuto dall'Associazione delle Vittime. Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, è l'unico libro riconosciuto dall'Associazione dei Famiglie delle Vittime, hai detto benissimo. Vogliamo andare un po' oltre la retorica della memoria di queste ore, pure giusta, e ragionare un attimo con te, Francesco, su che cosa ci ha lasciato in eredità quella vicenda, perché tutte le tragedie poi alla fine portano anche un'eredità positiva per certi aspetti. Qual è quella della tragedia dell'Aisel? Sì, quella negativa ovviamente è la memoria mancata, la memoria non condivisa. Quella positiva, incredibilmente, perché anche da una storia come quella dell'Aisel possono nascere cose positive, è che la forza, la dignità di Otello Lorentini e dei familiari, no, delle vittime italiane, hanno istruito un processo e alla fine hanno fatto condanna all'UEFA. Una condanna importantissima che ha fatto giurisprudenza, perché l'UEFA prima della condanna non era responsabile delle manifestazioni che organizzava e, come l'Aisel, prendeva l'81% dell'incasso. Invece con questa condanna è diventata corresponsabile. E cosa significa? Significa che se il 6 giugno, per esempio, a Berlino, Juventus Barcellona, i tifosi italiani andranno con un biglietto con scritto nome e cognome, con un chip identificativo in uno stadio con determinati requisiti di sicurezza, è bene ricordarlo, proprio per fare memoria in maniera giusta, che non è merito dell'UEFA o di qualche capoccione del board del governo del calcio europeo che ha preso questa decisione, ma è merito di quella sentenza, è merito di Otello Lorentini e dell'Associazione di Famiglie delle Vittime, che hanno fatto condanna all'UEFA in appello e in cassazione del processo di Bruxelles, un processo portato avanti in grande solitudine. Secondo te, Francesco, che cosa manca ancora per onorare pienamente da un punto di vista pratico e quotidiano quella tragedia? Beh, da una parte purtroppo l'Aisel è anche una lezione non imparata, quindi in Italia manca tanto, perché manca proprio il modo diverso di andare allo stadio, di godere di una partita di calcio. Per quanto riguarda i familiari delle vittime, qui mancano tanti anni, perché il primo presidente della Juventus che ha fatto un passo verso di loro è stato Andrea Agnelli nel 2010 con la prima messa, però il 2010 significa 25 anni dopo, 25 anni di niente sono molto difficili da recuperare. Io devo essere sincero, e non sono quello che ha scritto il libro, ma non sono un familiare di una vittima, però nutro una sana invidia per il Liverpool, stranamente, no? Perché comunque per Hillsborough, per la tragedia di Hillsborough, ha istituito un Memory Day. Un Memory Day che si celebra anche addirittura se c'è Liverpool-Everton, cioè un derby molto cattivo, un derby molto acceso, e in quel caso nessuno si permette però di parlare o di non rispettare i morti. Ecco, mi piacerebbe che la Juventus trovasse con i familiari delle vittime un accordo e creare quindi un Memory Day, un momento per commemorare tutti gli anni in maniera anche molto semplice, però molto vera, molto sentita. Grazie a Francesco Caremani, un collega giornalista, autore di Aisel, La verità di una strage annunciata, edizioni Bradipo, e da un libro che racconta questa tragedia passiamo a parlare invece di romanzi, perché dovremmo avere la cinquina del Campiello. Alessandra Tedesco, buongiorno. Buongiorno, sì Simone, la scelta della cinquina dei finalisti del Campiello è stata fatta questa mattina qui a Padova e viene fatta pubblicamente, è un po' anche l'occasione per fare il punto su un anno di narrativa italiana. Sono state un po' identificate due tendenze, il ritorno prepotente del romanzo storico e i romanzi di impianto realistico che a volte diventano veri e propri libri d'inchiesta. Vanno molto inoltre i romanzi su padri e madri, manca invece, hanno sottolineato i giudici del Campiello, manca la sperimentazione. Ma veniamo alla cinquina, insomma quella attesa. Allora, e sono entrati in cinquina Vittorio Giacopini con La mappa, Antonio Scurati con Il tempo migliore della nostra vita, dedicato a Leone Ginsburg, L'ultimo arrivato di Marco Balsano, Carmen Pellegrino, esordiente, entrata direttamente nella cinquina con Cade la terra, e infine Paolo Colagrande con Senti le rane, che l'ha spuntata su Domenico Starnone dopo diversi giri di voti pari merito fra i giurati. La finale ci sarà il 12 settembre a Venezia con la giuria popolare dei 300 lettori. E invece questa mattina è stato già assegnato il campiello Opera Prima, è andato a Enrico Iannello con La vita prodigiosa di Isidoro Siflotin. Grazie alla nostra Alessandra Tedesco. Si apre oggi al pubblico il labirinto dell'editore Franco Maria Ricci. Dall'alto somiglia a una fortezza. Sono 8 ettari di terra che ha fontanellato nella pianura padana parmense e sono stati trasformati nel labirinto più grande del mondo. Da sempre i labirinti mi hanno affascinato, ha spiegato l'editore, perché lo racconta Edoardo Pepino, nipote di Franco Maria Ricci e suo stretto collaboratore, al microfono di Adriana Fracchia. Franco Maria Ricci, quando ne parlava con Borges, grande scrittore argentino negli anni 70, quando si incontravano non facevano altro che parlare di labirinti, perché Borges era un appassionato di questi segni che fanno parte di tutte le civiltà, di tutte le culture, soprattutto quelle antiche. Il labirinto è un segno che esiste in tutte le culture, perché? Perché rappresenta il gomitolo della vita, no? Le difficoltà del trascorrere della vita e poi la speranza dell'uscita. E quindi, parlando sempre del significato del labirinto, di tutti i significati culturali e letterari che poteva avere questo segno, Ricci aveva promesso a Borges: io un giorno farò il labirinto più grande del mondo in queste terre. E Borges gli rispose, anche in maniera molto sintetica: no, in realtà il labirinto più grande del mondo esiste di già. Ricci disse: ma qual è? E Borges disse: è il deserto. Traffico.